sera nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 29 maggio, il sole in regione sorto alle 5.22 e tramonterà alle 20.48. Domani c'è luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. Gli approfondimenti dei vari comparti dell'agricoltura regionale oggi incontrano il biologico con un'analisi puntualizzata su viticoltura, enologia e frutticoltura. Mentre per i primi gli indicatori sono in territorio positivo, forse anche per il fatto di essere inseriti in un sistema ben strutturato ed organizzato, non è così per la frutticoltura, che patisce un certo disinteresse, anche se ci sarebbero ottime opportunità di miglioramento. A seguire la storia di Angelo Floramo, che oggi decanta le virtù del mus dell'asino, che tanto ha fatto per il mondo dell'agricoltura e del lavoro, soprattutto in montagna, ma ugualmente rimane classificato a torto quale animale cocciuto e stupido. Avremo poi, per la rubrica delle normative, le vicende di ordinaria burocrazia che stanno squassando l'iter di approvazione in Italia ed Europa del Piano Strategico Nazionale di Politica Agraria Comunitaria. Nello spazio che dedichiamo alla frutticoltura, protagonista una pianta selvatica, il corniolo, ottimo non solo per i suoi frutti estivi, ma per grappe aromatizzate e la tenacia del suo legno utilizzato nella costruzione di attrezzi agricoli. Quanto sono strategiche le api per l'agricoltura? Ci sono studi che hanno addirittura monetizzato il loro lavoro, ma basterebbe un solo dato: contribuiscono all'80% all'impollinazione di tutte le specie. Parlando di alberi, oggi invece si indaga il loro rapporto con l'acqua, come la trattengono, utilizzano e depurano, e come un'attenta progettazione dei nostri giardini potrebbe aumentare questi benefici. Andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo per la settimana entrante, il proverbio friulano di Vita nei Campi chiudono la puntata. Gli approfondimenti di Vita nei Campi incontrano la prima puntata che dedichiamo all'agricoltura biologica con Cristina Micheloni. Oggi prende in esame viticoltura, enologia e frutticoltura bio. Mentre per la prima le cose pare stiano andando bene, anche per il fatto di essere inserita in un contesto regionale ben strutturato, non è così per la frutticoltura, che patisce la debolezza del comparto, anche se ci sarebbero ottimi spazi d'azione e miglioramento. Iniziamo questa serie extra dedicata al bio e finalizzata a descrivere l'attuale realtà del settore, le sue potenzialità ma anche le sue difficoltà, con un'occhiata a due dei comparti di recente e maggior sviluppo a livello regionale, la viticoltura e la frutticoltura. La viticoltura bio friulana oggi conta su oltre 2.000 ettari, considerando che 10 anni fa erano meno di 400, lo sviluppo è evidente. In termini percentuali ancora poco, molto meno del vicino Veneto, per non dire della Toscana, ma anche del Trentino. Ma non si ricada nel luogo comune che in Friuli è più difficile fare bio per via del clima, perché aree difficili come la Franciacorta, dove il 60% del vigneto è bio, o il più vicino l'Isonfra Maggiore, dove il clima non è di certo amichevole, testimoniano che si può fare. Quali sono allora i maggiori limiti alla viticoltura bioregionale? Per una volta la risposta non è la mancanza di una filiera regionale, perché la maggior parte dei viticoltori bio si occupa anche della vinificazione e della commercializzazione. E c'è anche un accettabile livello di collaborazione tra i vignaioli bio, sempre nella loro friulanità. C'è anche un buon livello di supporto tecnico disponibile. Ciò che pesa di più, da un lato, è la frammentazione delle proprietà dei vigneti, che aumenta il rischio, anzi la concretezza, di deriva e quindi l'impossibilità di certificare il vino come bio. Ma anche alcune difficoltà nella difesa, non solo e non sempre la peronospora, ma soprattutto la flavescenza dorata e le malattie del legno. Ciò non significa che non vi siano vie praticabili all'interno delle regole del bio, molte aziende dimostrano che è possibile e anche non troppo difficile, ma di certo è richiesta maggior competenza, attenzione e attrezzature mentali e materiali, ed è questo l'aspetto che funge da freno. Fuor di dubbio che per fare bene il bio bisogna prendere in considerazione un concetto per troppi desueto, la vocazionalità dei territori. Ovvero, se vuoi produrre bene uva di qualità e vuoi lavorare con la natura e non contro di essa, evitando così fatica e chimica, è meglio scegliere di produrre ciò che in quel luogo cresce già bene di per sé. Quindi la collina è più semplice in bio che non in pianura. Anche la scelta delle varietà del portinnesto deve considerare il clima specifico e ciò che può esprimersi al meglio. Vero che nelle aree evocate il metodo bio non solo è relativamente semplice, ma facilita anche la migliore e più autentica espressione del territorio. Frutticoltura bio in regione, soprattutto mele, sia di varietà resistenti o tolleranti alla ticchiolatura e altre patologie, sia da varietà standard, con un progressivo ma continuo aumento delle prime. anche un po' di kiwi e in crescita la nocciola. Ciò che manca davvero è la frutta estiva, ovvero le drupace come pesco, albicocco, ciliegio e susino. I percorsi tecnici per gestirli in bio ci sono, ma diciamo che mancano degli esempi solidi cui ispirarsi. E le incertezze climatiche non infondono coraggio. Il mercato ci sarebbe ed anche interessante, sia per la vendita diretta che per i percorsi più lunghi. Le mele bio friulane sono in piccola parte vendute direttamente o comunque a livello locale, mentre una buona percentuale prende la via dei mercati più lunghi. Sulla frutticoltura bio, la mancanza di una strutturata filiera locale si sente e pesa, portando anche a paradossali situazioni come l'assenza delle pur disponibili mele bio locali nella ristorazione scolastica. Peccato, ma proviamo a risolverla questa situazione. Amministratori locali, parliamone. Dolce e docile, così descriveva l'asino lo scrittore Ippolito Nievo, un animale che nel tempo ha avuto un posto di rilievo nella vita nei campi e soprattutto in montagna. Non si capisce come mai nella storia sia stato preso di mira e additato quale esempio di cocciutaggine se non addirittura di stupidità. Ce ne parla oggi nella sua storia Angelo Floramo. Bestia da soma e dunque somaro. L'asino ha rivestito un ruolo estremamente importante nella storia dell'agricoltura friulana, almeno fino al secondo dopoguerra. Fu proprio quello il tempo in cui il mus venne sostituito dal meno recalcitrante trattore, più efficace forse, ma sicuramente meno capace di empatia e difficilmente eleggibile a figura degna dell'immaginario collettivo. Per secoli questa bestia, dolce e docile, come amava definirla Ippolito Nievo, venne impiegata per gravar nel basto di ogni peso malagevole da trasportare a spalla d'uomo o a dorso di donna. Carico di sacchi di granaglie, percorreva i sentieri che dai borghi rurali conducevano ai mulini, rientrando poi a casa con la farina. Oppure risaliva in silenzio i tratturi di montagna, portando nelle bisacce di cuoio che gli scendevano dai fianchi gli strumenti utili a boscaioli, carbonari e minatori, ma anche ai fabbri o ai falegnami delle tante officine e segherie disseminate lungo le pendici delle vallate alpine. Formidabile nel trascinare i tronchi fino agli scivoli di legno che li avrebbero fatti scendere a valle, spesso veniva impiegato nelle viscere della terra per tirare i pesanti vagoni nelle gallerie dove si estraevano il piombo o lo zinco. Sicuramente metteva allegria quando entrava in città, agghindato a festa con tanto di collane di fiori o cappelli di paglia, trainando in pariglia carretti pieni di frutta e verdura per il mercato. E di questo esiste ancora memoria a Udine. Viene ingiustamente associato all'ostinazione e alla stupidità nei proverbi, che la tradizione popolare utilizzava per trasmettere una sapienza spicciola e tuttavia ispirata al buon senso. Alavà il chiaf al mus, si butte via le aghe e si infastidis le bestie. Nel lavare la testa all'asino si butta l'acqua e si infastidisce l'animale. Indicato dalle maestre più severe come un esempio da non seguire, le sue lunghe orecchie hanno incoronato più di qualche zucca vuota dietro la lavagna, come marchio vergognoso di infamia. Eppure, la notte di Natale, almeno fino agli inizi del secolo XIII, era consuetudine che i presbiteri, anche nelle nostre pievi, intonassero il «Kyrie eleison asini», con una voce che nel canto gregoriano imitava l'asprezza del raglio. Un asino campeggia tra i mosaici dell'aula nord della Basilica di Aquileia, e negli affreschi di Valvasone un asino ammaestra un lupo. D'altronde Cristo nacque in una mangiatoia riscaldata da un mus, e per entrare in Gerusalemme non scelse certo la sella di un destriero. Dal 1 gennaio 2023 dovrebbe prendere avvio la nuova PAC, ma il piano strategico nazionale non è ancora pronto. Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, ci spiega a che punto siamo. In una precedente puntata di Vita nei Campi dicevamo che il 31 dicembre 2021 il Ministero delle Politiche Agricole ha trasmesso alla Commissione Europea la bozza del piano strategico nazionale per la PAC 2023-2027. Un documento di oltre 1500 pagine che racchiude tutte le regole per le misure di aiuto comunitario in agricoltura, dai pagamenti diretti alle misure di mercato fino allo sviluppo rurale. E il 31 marzo scorso, ultimo giorno utile secondo lo scadenziario di Bruxelles, La Commissione ha risposto con un documento di 40 cartelle contenenti ben 244 punti tra richieste di chiarimenti e richieste di correzioni. Chi volesse documentarsi può scaricare entrambi i documenti dal portale www.reterurale.it. Le osservazioni della Commissione sono sostanziali o è più una questione di forma? Obiettivamente molte osservazioni riguardano proprio la strategia nazionale e le motivazioni di alcune scelte fondamentali in fatto di condizionalità, di convergenza del valore dei titoli, di formulazione degli ecoschemi e dei pagamenti accoppiati. In più punti si legge che nella versione attuale il piano è insufficiente rispetto agli obiettivi comunitari, a tratti contraddittorio e spesso privo di parametri oggettivi in grado di descrivere il contesto attuale e misurare eventuali progressi ottenuti a fine programmazione. Infatti, rispetto al passato, la PAC 2023-2027 si caratterizza per il fatto che si focalizza più sul raggiungimento di obiettivi che sul rispetto di determinate regole di spesa. Insomma, una bocciatura. Più che bocciati, direi che siamo stati rimandati a settembre. D'altro canto, si deve anche dire che il Ministero ha avuto pochissimo tempo per preparare il piano strategico. L'accordo politico sulla nuova PAC tra Consiglio europeo, Commissione e Parlamento è del 25 giugno, ma i testi legislativi sono stati approvati appena il 23 novembre e pubblicati il 6 dicembre. Inoltre alcuni aspetti devono essere coordinati con le regioni, la qual cosa evidentemente complica e rallenta i processi decisionali. E ora come prosegue l'iter per il PNS? Ora bisogna correre per recepire le osservazioni e ripresentare il piano a Bruxelles entro luglio, sperando che possa essere approvato prima della fine dell'anno. Naturalmente questa situazione di incertezza per i produttori è deleteria, anche perché la materia è molto complessa e garantire un'adeguata informazione sul territorio non sarà affatto semplice. Tant'è che qualcuno, e non solo in Italia, sostiene che sarebbe meglio rinviare l'entrata in vigore della PAC dal 1 gennaio 2023 al 2024. Non è tra le piante coltivate, ma in natura fa bella mostra di sé in primavera con fioriture precoci e ad agosto con frutticini gradevolissimi. Oggi il professor Raffaele Testolin ci parla del corniolo, ottimo per confetture, grappe aromatizzate e anche per il suo legno tenace, che nel tempo ha avuto molti utilizzi, soprattutto nella costruzione di attrezzi agricoli. Oggi vorrei parlare di corniolo. So che il corniolo non si coltiva, ma vedere qualche pianta di corniolo nei giardini, cosa rara, mi dà molta gioia. Innanzitutto perché, povera pianta, è la prima a fiorire e nei nostri boschi, dove cresce spontanea, con quei delicati fiori giallini in mezzo al brullo invernale che la circonda, riempie il cuore di allegria. E poi, in agosto, quando si girava da ragazzi per i boschi, trovare le corniole mature era una festa. Avevamo imparato a nostre spese a scuotere l'albero e a mangiare i frutti maturi che cadevano, perché quelli rimasti appesi, anche se rossi, erano talmente acidi da scoraggiare anche i più affamati. Alcuni ristoranti, seguendo la tradizione d'oltrampe, preparano confetture per bolliti, ma in Friuli non si può parlare degli utilizzi del corniolo senza parlare di grappa. Ne parlo perché la distillazione per il consumo familiare è autorizzata. La resa è bassa perché il frutto è poco dolce, ma il profumo è di quelli che non si dimenticano. Del corniolo un tempo si usava tutto, era un colorante naturale, mentre il legno, tra i più duri che possiamo trovare tra le essenze che crescono in Friuli, era usato assieme al maggiociondolo per produrre pipe, denti per rastrelli da fieno e parte di arnesi particolarmente sottoposti ad usura. La scorsa puntata nella rubrica delle api e dell'apicoltura con Moreno Greatti avevamo parlato dell'impollinazione, ma non è l'unico rapporto che questi insetti hanno con il mondo dell'agricoltura in generale. Oltre il 75% delle specie delle principali colture agrarie si servono degli insetti impollinatori per trasferire il polline da un fiore all'altro. garantendo così la formazione del frutto e dei semi. Ciò vale non solo per la produzione di frutta e ortaggi, ma anche per la produzione di colture foraggere necessarie in zootecnia e di orticole, di oleaginose come il girasole e il colza o di specie da legname. Secondo studi recenti, la produzione agricola mondiale direttamente associata all'impollinazione rappresenta un valore economico stimato che sfiora i 600 miliardi di dollari. In Europa gli insetti impollinatori contribuiscono alla produzione agricola di almeno 150 colture, l'84% delle coltivazioni presenti nel continente. Al giorno d'oggi le api sono diventati pronomi chiave dell'impollinazione delle colture agrarie, in quanto la riduzione degli habitat e l'agricoltura industrializzata hanno reso i campi coltivati un ambiente inospitale a tutti gli insetti impollinatori selvatici. Ed è proprio la scomparsa degli impollinatori selvatici che ha fatto crescere l'importanza economica dell'ape, allevabile e spostabile, come agente impollinatore, facendo passare in secondo piano i ricavi ottenuti con le produzioni classiche dell'alveare. A questo proposito si calcola che la resa delle api in produzione agricole sia, a seconda delle circostanze, dalle 10 alle 1000 volte superiore alla resa in prodotti dell'alveare. Proprio per la rarefazione diffusa degli insetti impollinatori selvatici e perché sono lontani i tempi in cui molti agricoltori possedevano qualche alveare per soddisfare i consumi familiari, garantendo in questo modo una sorta di copertura di impollinazione territoriale, si è ampiamente diffusa la pratica del servizio di impollinazione guidato. Con questo servizio gli apicoltori noleggiano gli alveari agli agricoltori durante il periodo di fioritura di una determinata coltura, che per produrre necessita dell'impollinazione incrociata. Tenendo conto che ogni coltura agraria prevede l'attuazione di tecniche diverse affinché il servizio di impollinazione venga svolto in maniera efficace, è necessario che l'apicoltore sia tecnicamente preparato su come affrontare questa attività. D'altro canto, l'agricoltore deve obbligatoriamente evitare trattamenti con antiparassitari durante la fioritura della coltura ed eventualmente sfalciare la flora in fiore che può esercitare una competizione nei confronti dei fiori delle piante da impollinare. Raramente gli apicoltori riescono a produrre miele da queste colture in fiore e la remunerazione per gli alveari noleggiati va a coprire i costi che l'apicoltore sostiene per svolgere questa attività. Con l'architetto Roberto Barocchi, che a tre voci conduce questa rubrica dedicata agli alberi, seguendo un loro libro recentemente pubblicato, Amici Alberi, oggi parliamo di giardini drenanti. Lo aveva già detto in un suo precedente intervento. Di cosa si tratta? Ma è noto che una delle buone cose che ci regalano gli alberi è di trattenere grandi quantità di pioggia, che poi viene rilasciata gradualmente dalle foglie, contribuendo così a umidificare l'ambiente. In tal modo riducono la massa d'acqua che altrimenti finirebbe nelle fognature, mescolandosi con le acque nere, e siccome gli impianti di depurazione possono trattare contemporaneamente solo una certa quantità di reflui, parte delle acque di fogna vanno direttamente in mare o in fiume senza essere depurate. Inoltre, con grandi piogge le strade si possono allagare. Le piante hanno quindi una positiva azione di regimazione delle acque, ma per farlo devono avere attorno a sé terreni drenanti, poiché su pavimentazioni impermeabili le acque scorrono via intasando le fognature. Si può poi migliorare ancora la regimazione delle acque modellando il terreno dei prati e giardini in modo che i prati trattengono in piccole depressioni una parte dell'acqua che poi penetrerà nel terreno e sarà in parte assorbita dalle radici. Ne ho visto un bel esempio in Germania, nella cittadina di Osthildern, vicino a Stoccarda. Lì anche le canalette di scolo contengono sul fondo dei piccoli avvallamenti che trattengono parte dell'acqua per farla penetrare nel terreno. In questo modo quasi tutta l'acqua di pioggia non andrà a caricare le fognature. Quindi, con poca spesa, si possono fare quelle che io chiamo pluviogiardini, in inglese rain garden, che consentiranno di far penetrare più acqua nel terreno e farne passare meno nelle fognature. E tutto questo anche a vantaggio degli alberi. Gli alberi hanno sempre bisogno di acqua, non deve essere acqua stagnante perché le radici potrebbero marcire, ma più acqua hanno e meglio è. Con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli. Mercato poco attivo, con prezzi eccedenti, venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine. dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 35,50 e 35,80 euro al quintale in Vescrusa, il frumento non quotato, e la soia tra 66,30 e 66,80. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 9,50 euro e la soia di 7,50 centesimi il quintale. Discrete contrattazioni all'ortofrutticolo di Udine con prezzi diversificati. L'insalata Gentile e la lattuga Trocadero vengono quotate tra 1,10 e 1,20 euro al chilo, IVA esclusa. Le zucchine tra 1,20 e 1,30. Le melanzane tonde tra 0,90 e 1,30. I peperoni gialli e rossi italiani tra 2,50 e 2,90. I pomodori in grappolo tra 1,90 e 2,30. La scalola riccia tra 2,50 e 2,60. Il riccio rosso tondo e quello di Treviso da 2,60 a 2,70. Le pesche italiane da 2,20 a 4,80, le albicocche da 3,50 a 3,80, i meloni da 2,80 e le angurie da 1,10 a 1,30. Il settore della pesca attraversa in questo periodo un difficile momento causa il caro gasolio e di conseguenza i prezzi sono leggermente lievitati. Alla cooperativa pescatori San Vito di Melano Lagunare i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi sono quotati da 22 a 34 euro al chilo IVA esclusa. Le sogliole da 8 a 28, le canocce da 6 a 16, le orate da 10 a 30, le passere da 12 a 16, i gamberi da 13 a 18, le anguille da 20 a 23, le seppie da 8 a 14 e i calamari da 28 a 33. Segno positivo invece nel settore caseario, dove la commissione camerale di Pordenone Udine giovedì scorso ha quotato il montaggio di 90 giorni tra 7,10 e 7,40 euro al chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 8,20 e 8,50 con marchio di qualità tra 9,20 e 9,50, lo stagionato 12-15 mesi tra 8,60 e 9 euro. Migliora anche il prezzo del latte crudo di vacca di origine del Friuli Venezia Giulia, quotato Franco Stalla tra 47,10 centesimi e 48 il litro più premi qualità e IVA. E con il previsore dell'ARPA Arturo Puccillo diamo uno sguardo al tempo che farà nella settimana entrante. La settimana che va a chiudersi rimane caratterizzata da temperature molto sopra la media del periodo e da qualche episodio temporalesco di grande rilievo, con grandine e colpi di vento, in particolare il 24 maggio sul Pordenonese e fino a Palmanova, e il giorno seguente sul Gemonese e colline moreniche. Gli ultimi due giorni invece hanno visto un drastico calo delle temperature grazie all'avvicinamento di una circolazione depressionaria dal nord Europa, con l'arrivo della bora e un calo delle temperature massime di oltre 10 gradi in due giorni in pianura. Le piogge conseguenti tuttavia sono state di scarsa rilevanza, soprattutto non sufficienti ad attenuare il deficit idropluviometrico che attualmente funesta la regione e più in generale il nord Italia. Vedendo le previsioni, domani rimarrà ancora una circolazione sud-occidentale in quota orientale al suolo, anche se in via di attenuazione. Avremo ancora quindi una certa variabilità, temperature relativamente fresche e la possibilità di qualche locale pioggia o rovescio. La bora si attenuerà già in mattinata. Martedì e mercoledì prevarrà il sole su Pinore Costa, mentre una certa variabilità interesserà le zone interne, specie di pomeriggio, e non si esclude qualche locale temporale. Le temperature riprenderanno a salire e con mercoledì si raggiungeranno probabilmente di nuovo i 30 gradi in pianura. Giovedì e venerdì l'anticiclone africano raggiungerà la sua massima estensione, portando masse d'aria molto calda a tutte le quote. Non mancherà una certa instabilità pomeridiana in montagna, mentre su Pinore Costa prevarrà il sole e farà sempre più caldo. Nel prossimo fine settimana, all'aria calda a tutte le quote si aggiungeranno gli effetti di compressione dei venti orientali, che potranno far lievitare temperature massime oltre 30 gradi sulla costa e intorno ai 35 in pianura, dando vita a un'ondata di caldo eccezionale per i primi di giugno. Naturalmente vi sono diversi elementi di incertezza, quindi raccomandiamo di seguire costantemente l'aggiornamento delle previsioni sulla RAI regionale, sul nostro sito web e sui principali social media. Alla prossima! Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo e ai santi. San Marcellin bon palag e bon palvin, ovvero a San Marcellino il 2 giugno va bene l'acqua ma anche il vino. Coordinamento tecnico di Marco Rasi, nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Miccoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.